Noi abbiamo pensato questa nuova legge come uno strumento che da oggi è nella disponibilità dei comuni e che avranno quindi una possibilità certa, sulla base di una norma primaria, di poter regolamentare all'interno del proprio territorio, area per area, zona per zona, quanto e come possa essere esercitato questo tipo di attività. Cioè potranno definire una percentuale massima, anche appunto differenziando diciamo quartiere per quartiere, area per area, una percentuale massima di affitti brevi rispetto agli immobili residenziali, alle unità abitative residenziali disponibili, e potranno farlo anche all'interno della stessa unità immobiliare e potranno decidere degli standard di qualità minimi a cui dovranno adeguarsi appunto questo tipo di attività. Appunto, avete individuato strumenti di tipo urbanistico e la caratteristica diciamo di questa legge è che non impone obblighi ma dà ai comuni, no, la possibilità di intervenire se e dove c'è bisogno. Noi siamo partiti dal presupposto che il territorio dell'Emilia Romagna sia molto vasto e anche molto differenziato. Non si poteva certo imporre diciamo uno standard comune a una città come Bologna, a un piccolo comune dell'entroterra reggiano o piacentino e ai comuni della costa che evidentemente hanno diciamo diverse esigenze, hanno una diversa economia. Di conseguenza abbiamo deciso di prendere l'approccio il più elastico, il più flessibile possibile e poi di affidarci alla responsabilità degli amministratori locali. La differenza rispetto a prima è che chi voleva, quei comuni che ritenevano di avere un problema e tentavano di risolverlo per via amministrativa, in assenza di una legge, rischiavano ogni volta di essere diciamo sepolti di ricorsi al Tribunale Amministrativo Regionale. Ora, avendo una norma primaria che li copre e li indirizza, se stanno all'interno di quelli che sono in qualche modo le indicazioni che noi abbiamo dato, non avranno più alcun rischio, semplicemente applicheranno la legge. A proposito di tribunali, nei giorni scorsi è arrivata anche la sentenza della Corte Costituzionale sulla legge toscana che era stata impugnata dalla destra. Anche in Emilia Romagna la destra ha votato contro, però insomma c'è un avallo in più per questo tipo di legislazione. Guarda, io credo che ci sia diciamo un elemento, credo da un lato di ignoranza diffusa e anche dall'altro di un opportunismo sbagliato da parte del governo. Cosa intendo dire? Il titolo quinto della Costituzione è ormai in vigore diciamo da 20 anni e più in Italia ed è un approccio costituzionale molto chiaro: esistono materie concorrenti, esistono materie esclusive delle regioni. Quando ci si muove nell'ambito del turismo e nell'ambito del governo del territorio, le regioni hanno potestà legislativa piena, quindi significa che non hanno diciamo così un elemento di subordinazione rispetto allo Stato, possono legiferare esattamente come credono purché rimangano all'interno dell'alveo costituzionale. Noi, muovendoci all'interno di una legge che interviene sul governo del territorio, cioè sull'urbanistica, esattamente come la Toscana, ma fosse anche il turismo sarebbe la stessa cosa, non ci può essere alcun dubbio su quella che è la scelta della Corte Costituzionale, perché non si tratta di capire se le leggi sono in linea con quello che pensa il governo nazionale, si tratta semplicemente di capire se quelle leggi si muovono nell'alveo di attribuzione che la Costituzione determina per le regioni, e che turismo e governo del territorio siano competenza regionale, questo è fuori discussione, è scritto proprio nero su bianco. Ora appunto l'Emilia Romagna ha una legge regionale, resta comunque però la necessità di una legislazione nazionale sul tema? Io credo che esista la necessità di una legislazione nazionale sul tema se si vuole ad esempio intervenire sulla questione fiscale, cosa che il governo in parte ha fatto molto debolmente dal mio punto di vista, ma quello è anche un elemento diciamo molto rilevante. L'altra questione su cui noi non possiamo fare nulla, ma su cui invece sarebbe il caso di aprire un focus, è la differenza diciamo fra chi esercita questa attività perché ha diciamo un immobile, magari lo affitta così a affitti brevi per alcuni giorni l'anno, e chi invece diciamo ne ha molti e lo esercita in modo molto più professionale. Questa è una distinzione che probabilmente andrebbe introdotta, ma non è una distinzione che noi potessimo introdurre con una legge regionale che interviene sul governo del territorio, appunto. Però io credo che sarebbe giusto farlo. Ecco. Noi abbiamo provato in qualche modo a introdurre comunque una differenziazione, nel senso che abbiamo tenuto completamente escluso da questa legge chi affitti per un periodo limitato oppure per uno spazio limitato la propria casa di residenza. Mi spiego, se tu hai la tua casa e vai a farti un Erasmus di 6 mesi, se durante quei 6 mesi la usi per affitti brevi, non sei compreso in questa legge sostanzialmente, quindi puoi farlo liberamente. Se abiti in una casa che ha a Bologna, che ha una stanza libera e vuoi affittarla a un terzo anche per affitti brevi, questo per noi va bene, l'abbiamo tenuto fuori dalla legge. Cioè abbiamo cercato in qualche modo di restare in quello che era lo spirito originario, no? Con cui partirono gli affitti brevi, cioè l'idea che tu insomma ricavavi un reddito aggiuntivo limitato perché affittavi temporaneamente a casa tua sostanzialmente, quello per noi va benissimo. Il punto è regolamentare laddove si ritenga che si sia andati oltre un termine di sostenibilità, quelli che invece sono gli eccessi.